leggiamo un episodio nel Vangelo di Marco veramente unico. Ora Gesù, trovandosi a Betania in casa di Simone il lebbroso, mentre era a tavola, entrò una donna con un vaso di alabastro di olio profumato di autentico nardo di grande valore. Orella, rotto il vaso di alabastro, glielo versò sul capo. Alcuni si sdegnarono fra di loro e dissero: «Perché tutto questo spreco di olio? Poiché si poteva vendere quest'olio per più di 300 denari e darli ai poveri». Ed erano indignati contro di lei. Ma Gesù disse: «Lasciatela fare, perché le date fastidio? Ella ha compiuto una buona opera verso di me, perché i poveri li avrete sempre con voi. E quando volete, potete far loro del bene, ma non avrete sempre me. Ella ha fatto ciò che poteva. Ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. Ma in verità vi dico che in tutto il mondo, ovunque sarà predicato questo Evangelo, si racconterà pure in suo ricordo ciò che costei ha fatto». Marco 14:3-9. L'Evangelista Giovanni ci ricorda che Gesù fece molti segni miracolosi che non sono stati scritti. Anche i quattro evangelisti non narrano tutti esattamente gli stessi fatti di Gesù, dimostrando in questo modo che alcuni di questi erano secondo loro più importanti di altri. Ma l'episodio di Maria, che unge il capo di Gesù e, come Giovanni ci ricorda, pure i piedi, è talmente importante da indurre ognuno dei quattro evangelisti a narrare il fatto. Gesù stesso disse che quello che la donna aveva fatto sarebbe stato raccontato in memoria di lei. Perché cosa fece di straordinario Maria per essere lodata da Gesù ed essere ricordata in tutti i quattro gli Evangeli? In fondo, a confronto degli apostoli, che hanno lasciato ogni cosa per seguire Gesù per poi morire per lui, essa ha solo unto il capo e i piedi di Gesù. Esaminiamo attentamente i fatti. Bell'episodio colpisce subito il fatto che alcuni discepoli rimangono indignati per lo spreco compiuto da Maria. E questo è comprensibile, perché tutti io per primo sono contro ogni forma di spreco. Che cosa si intende per spreco? Quando una cosa è sprecata. Diventa spreco quando si dà più del necessario, quando per fare un pranzo occorre un chilo di pasta, ed io ne uso tre, quando per fare un lavoro occorrono due ore, ed io ne impiego cinque. Quello che in più è tutto sprecato, perché Maria aveva sprecato dell'olio profumato? I discepoli non le hanno rimproverato il gesto d'amore, non erano indignati perché ha usato dell'olio. Ma la loro reazione negativa era in riferimento allo spreco. Così, per comprendere il gesto di Maria e della reazione negativa dei discepoli, prendiamo in esame alcuni aspetti culturali. È importante tenere presente la descrizione dell'Evangelista Giovanni di questo episodio, perché il primo a lamentarsi del gesto di Maria è stato Giuda, Giovanni 12, 1-8, quello che in seguito lo avrebbe tradito. Evidentemente, alcuni degli altri discepoli, e non tutti, nell'udire il commento moralistico di Giuda, si sono associati al suo parere. In pochi minuti Giuda, che amava il denaro, fece un veloce calcolo dicendo che si poteva vendere l'olio usato da Maria per 300 denari. 300 denari! A noi questa somma di denaro dice ben poco se non siamo in grado di valutarne il valore corrispondente di allora. Secondo la parabola dei lavoratori delle diverse ore, la paga giornaliera di un operaio era di un denaro. Se si considera che Maria ha rotto un vaso che era valutato da Giuda 300 denari, significava che Maria aveva unto Gesù con dell'olio dal valore di 300 giornate lavorative, e 300 giornate lavorative sono quasi il lavoro di un anno intero. Se facciamo il paragone del valore del denaro al giorno di oggi, possiamo stabilire che se un operaio guadagna circa 50 euro al giorno, 300 giorni lavorativi equivalgono a 15.000 euro. Maria quindi unse Gesù con un olio che valeva circa un anno intero di paga. Se poi la somma sembra esagerata per del profumo, se si considera che una libra era pari a 327 grammi, cioè poco più di 3 etti, Giovanni 12, 1-3, si fa presto a fare un somma esorbitante quando si parla di profumi. Se, nonostante tutto, a qualcuno sembra esagerato il valore attribuito a 300 denari, è sufficiente pensare che quando Gesù ordinò ai discepoli di sfamare le 5.000 persone che lo seguivano, i discepoli, stimarono che occorrevano almeno 200 denari, Giovanni 6, 7. Ecco perché i discepoli furono indignati. Va bene ungere il maestro, va bene occuparsi di lui, ma fino ad un certo punto con un po' di discernimento. Siamo d'accordo nell'usare dei beni per Gesù, ma per carità usiamo pure la testa. Eppure Gesù interviene a favore di Maria. Se voi avete ritenuto uno spreco il valore di denaro che è stato usato per me perché potevate darlo ai poveri, sappiate che prima di tutto i poveri li avete sempre, cioè potete farlo quando volete. Inoltre, quello che è stato fatto per me non è sprecato, perché ha anticipato l'unzione del mio corpo per la sepoltura. Per Gesù, l'atto, apparentemente insensato di Maria, era più che opportuno. Questo episodio ci dice principalmente una verità. Quello che è fatto per Gesù non è mai sprecato. Nella nostra mente distorta vi è radicata l'idea che quello che è fatto per le necessità della vita sia sempre, o quasi sempre, utile e necessario, mentre per le cose di Dio pensiamo che sia quasi sempre sprecato. Una persona che fa sacrifici per riuscire nello sport, nella politica, sul lavoro, è stimata da tutti. Mentre se fa sacrifici anche molto minori per Dio e la sua causa, lo si considera uno spreco. Non tanto perché è rivolto verso Dio, perché un poco di attenzione alla divinità in cui si crede è moralmente giusto, ma non è morale dargli troppo. E, giusto dare a Dio quel tanto, ma più di tanto, diventa uno spreco. Molti pensano che dobbiamo sì occuparci per Dio, ma quando si cerca prima il suo regno e la sua giustizia delle necessità della vita, allora il nostro zelo si trasforma in fanatismo. Non è vero? Non ho mai assistito alla scena di un genitore che riprende suo figlio perché studia troppo o perché si impegna eccessivamente in una attività agonistica, redditizia, mentre ho sentito dei genitori lamentarsi perché un loro figlio era troppo impegnato nell'opera di Dio. Eppure una cosa è certa. Se Gesù è Dio ed è morto per me, allora non vi è nulla di sprecato che sia dato per Lui. Noi diamo al Signore la decima e facciamo attenzione di non dare di più. Noi diamo al Signore del tempo e facciamo attenzione di non usarne troppo. Noi diamo a Dio la vita, ma riteniamo sprecato consacrargli tutto. Eppure, una vita sprecata è quella vissuta per se stessi, mentre chi vive per Gesù e il suo regno ha fatto il suo interesse, perché ne riceverà 100 volte tanto ora, e anche nel futuro. L'affermazione che mi piace di più in questo episodio è quella emessa da Gesù quando, rivolgendosi ai discepoli, disse: «Lei ha fatto ciò che poteva». Che bello! Gesù non ha lodato Maria perché ha fatto cose grandi, perché ha dato un valore incalcolabile, ma perché ha fatto quello che era nelle sue possibilità. In cielo non saremo lodati per le cose grandi che abbiamo fatto, perché poi, in definitiva, le ha fatte Dio, ma per quello che era in nostro potere di fare abbiamo fatto. Un evangelista che ha predicato in tutto il mondo a miliardi di persone come Billy Graham, davanti a Dio, benché sia stato uno strumento di salvezza per migliaia di persone, può benissimo essere inferiore a un credente che nella sua vita ha visto una sola conversione grazie alla sua testimonianza. Non è la quantità che Dio guarda, ma la qualità. Con questa prospettiva possiamo comprendere meglio l'affermazione di Paolo: «Perciò, fratelli miei, carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore», 1 Corinzi 15 e 58. «Ciò che è fatto per Cristo non è vano, perché qualsiasi cosa, anche la più piccola, sarà tenuta in considerazione. Chi potrebbe disprezzare il giorno delle piccole cose?» Zaccaria 4 e 10. Ricordiamoci dell'episodio dell'offerta della vedova. Marco 12, 41-44. Gesù osservava la gente che metteva denaro nella cassa, e mentre molti ricchi mettevano grande quantità di denaro perché potevano farlo, una vedova mese 2 spiccioli, cioè un quadrante. Gesù lodò la sua offerta perché mise tutto quello che possedeva, tutto quanto aveva per vivere. Facendo i calcoli del valore del quadrante, oggi potrebbero essere circa 1 euro. Per poter comprendere meglio la povertà di questa vedova e il valore del denaro che mise nell'offerta, teniamo presente che due passeri venivano venduti per quella cifra. Queste riflessioni portano alla conclusione che il vero cristianesimo impedisce la frustrazione, i complessi di inferiorità. Il Dio dei cristiani apprezza ogni piccolo sforzo, ogni piccolo dono. Se poi una persona possiede ed ha molto di più, avrà un maggior premio. Un giorno disse ad un giovane che aveva di tutto: «Vorrei avere i tuoi doni e le tue possibilità, perché a Dio avrei dato molto di più». Il Signore chiama a donare anche il poco, ma è meraviglioso poter dare molto. È facile servire Dio a una certa età, quando ormai nella vita si è tolto ogni capriccio, ma è prezioso che dei giovani consacrino la loro vita, il meglio che hanno, per Dio. Più grande è l'offerta, più grande è la ricompensa. Chi sono quelle persone che sono disposte a dare il meglio della loro vita? Chi sono quei ragazzi che non soddisfano le loro concupiscenze giovanili per consacrarsi a Dio? Ricordiamo anche l'episodio del re Davide con Arauna, il Gebuseo. Il re Davide, ricco e facoltoso, doveva fare un sacrificio e Arauna gli offriva sia la legna che i buoi gratis. Ma Davide ripose: «No, io comprerò da te tutte queste cose per il loro prezzo, e non offrirò al Signore e al mio Dio olocausti che non mi costino nulla». 1 Samuele 19:18 25. E facile offrire tempo, denaro e ogni altra cosa che costa poco o è superfluo. Maria offerse un valore inestimabile, la vedova diede poco ma era tutto ciò che aveva e per questo dopo secoli e per sempre sono ricordate e prese come esempio. Siamo chiamati ad essere sobri perché la sobrietà è rara ed è il frutto dello Spirito Santo, ma per Dio non dobbiamo fare dei calcoli, non dobbiamo temere lo spreco, perché se non è stato uno spreco il sacrificio di se stesso che Gesù ha offerto sulla croce, allora non vi è nulla che possa essere sprecato per Lui. Febbraio 2005, Ellero.